falco e il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò, e ti avrò. Oggi parliamo di cinema e quindi di recitazione, quindi di attori. Bene, quando un attore è molto scarso, e questo ahimè negli ultimi tempi si verifica abbastanza di frequente, quando un attore è molto scarso si dice che è un cane. Bene, oggi noi vi racconteremo la storia del più grande cane che abbia recitato in un film, ma almeno lui abbaiava veramente, perché vi racconteremo la storia di Rin Tin Tin. Questa era la sua voce originale, neanche doppiata. Questo è il pastore tedesco più famoso della storia del cinema. Certo, non vogliamo pretendere che voi pensiate che Rin Tin Tin abbia avuto nella sua vita un colpo d'ala capace di cambiare le cose. Quando si parla di cani, tutto al più può venire in mente il classico colpo d'anca che hanno durante la loro passeggiatina serale, ma noi vi parleremo di Lee Duncan. Chi è Lee Duncan? È l'uomo che ha trovato Rin Tin Tin quando ancora era un cucciolo, lo ha addestrato e che alla fine con tenacia è riuscito a farlo diventare una stella del cinema. Per conoscere la storia di Lee Duncan dobbiamo tornare indietro nel tempo, all'inizio di quel terribile conflitto che è passato alla storia con il nome di Grande Guerra. Ci troviamo in Europa, siamo nel 1918, la prima guerra mondiale volge ormai alla fine. Il caporale Lee Duncan delle forze aeree americane viene mandato in missione in Lorena, la regione francese ai confini con il Lussemburgo, per identificare un possibile sito per costruire un campo di atterraggio per gli aerei alleati. Siamo all'inizio del secolo e i biplani in uso sono quello che sono, hanno un'autonomia limitata e quindi è necessario organizzare piste di decollo e atterraggio. La zona è stata pesantemente bombardata e Duncan attraversa paesi abbandonati e ridotti a cumuli di macerie. In uno di questi paesini Duncan trova le rovine di un canile, ed è un canile importante perché è quello dove vengono addestrati i cani dell'esercito tedesco. Il caporale Duncan si aggirava tra le macerie del canile quando improvvisamente si imbatté in una cucciolata di pastori tedeschi, sorvegliata dalla madre. Erano sopravvissuti ai bombardamenti ed erano affamati. Duncan si avvicinò alla madre, pur sapendo che poteva essere pericoloso, dal momento che le madri sono molto protettive nei riguardi dei loro cuccioli. La donna di cui avete sentito la voce è senza dubbio la più qualificata a raccontare insieme a noi la storia di Rin Tin Tin, perché è la sua biografa ufficiale. Si chiama Susan Orlean e ha scritto un libro che racconta proprio la vita di Rin Tin Tin. Da lei sappiamo che Lee Duncan conosce bene i cani, e li conosce bene perché i cani sono stati i suoi compagni d'infanzia. Peraltro un'infanzia difficile, perché a soli 5 anni Lee viene lasciato con la sorella in un orfanotrofio dalla madre che non ce la faceva più a mantenere i propri figli. Lee cresce prendendosi cura dei cagnolini che, come è accaduto ai bambini, sono stati abbandonati, quindi accolti all'interno della struttura. E quindi il caporale Duncan, memore dei suoi gesti di affetto nei confronti dei cani di quando era bambino, prende con sé la cucciolata e la porta insieme alla madre al campo. Bene, in breve tempo i cuccioli diventano le mascotte di tutti i soldati e uno alla volta vengono adottati dagli ufficiali. Non tutti, perché Duncan ha deciso di tenere per sé un maschio e una femmina, chiamandoli come due pupazzetti portafortuna francesi, Rin Tin Tin e Nanette. Shout or swear, not very sorry, he doesn't care. God knows why we call him Old Faithful. Pat him on the head, give the dog a bone, use a friendly tone, he won't leave you alone. no one understands like old faithful. Finisce la guerra e si torna a casa, e il ritorno di Lee Duncan non è solitario, perché Duncan è in compagnia di Rin Tin Tin e di Nanette. Beh, il viaggio in nave è lungo e quando Duncan arriva a New York ha una brutta sorpresa. Nanette è malata, ha la polmonite. Duncan decide di affidarla alle cure di un allevatore locale che in cambio gli dà un altro cucciolo femmina di pastore tedesco. Nanette morirà dopo pochi giorni e Duncan, per renderle omaggio o forse per scarsa fantasia, chiama la nuova fidanzata di Rin Tin Tin ancora Nanette. Yuriti! Riti alt! Dietro front! Avanti marsh! Riti alt! Attenti! Rompete le righe! Bravissimo, 10 minuti di riposo. Eh sì, perché tornato a casa Duncan si accorge che Rin Tin Tin è molto ubbidiente, capisce alla perfezione gli ordini che lui dà al cane e inoltre è molto agile, non ha paura di nulla, corre, salta gli ostacoli e quindi per lui questo gioco diventa sempre più qualcosa di serio. Duncan addestra il suo cane a eseguire azioni prestabilite sia con comandi vocali sia con semplici gesti del braccio o della mano. Il suo cane sembra essere diverso dagli altri, è molto più intelligente e Duncan pensa che questa sua dote potrebbe essere un vantaggio per entrambi. Avere un cane così agile e obbediente poteva essere una vera opportunità di lavoro. Certo, bisognava solo essere al posto giusto nel momento giusto. Ma in fondo Duncan viveva in un luogo dove ogni desiderio poteva trasformarsi in realtà. Lee Duncan e Rinty, che è il nome che lui dà a Rin Tin Tin, vivono a Los Angeles. Los Angeles è la città dove tutto può accadere e lì si fa il cinema. Le occasioni per incontrare qualche sceneggiatore, qualche regista o qualche produttore cinematografico sono molto alte. Siamo agli inizi degli anni 20, il cinema è ancora muto e il modo di fare film è decisamente diverso da come siamo abituati a immaginarlo oggi giorno. Non ci sono i vincoli della registrazione dell'audio e gli attori esasperano la mimica e le espressioni del viso per accentuare i sentimenti di amore, odio, paura, allegria. E siamo ancora agli sguardi spiritati delle donne aggrappate alle tende. E sul set il regista dirige ad alta voce gli attori e dice loro cosa devono fare per completare la scena. Fotografo! Harry! Inseguilo intorno alla macchina fotografica! Benissimo, rimettilo in linea! Grossa reazione, e questo chi è? Sta giù, Harry, stai giù! Sposo, guarda lo storto, sei geloso! Puoi fare di meglio, no? Sforzati! Ora, Maple, fai gli occhi dolci al vagabondo! Sì, così. Padrona, tu sei tutta scisci, chi è questo straccione? Bene, molto bene! Sposo, arrabbiati, sta cercando di fregarti la tua bella sposina! Padrona! Mollagli un cazzotto! Benissimo, caduta al domino, al domino! Inseguitelo, inseguitelo! Lee Duncan sa che il suo cane addestrato potrebbe essere utilizzato in qualche produzione cinematografica. Tra l'altro è appena uscito nei cinema un film The Silent Call in cui recita un altro cane, Strongheart, e Rinty, come ben sa Lee Duncan, saprebbe fare almeno le stesse cose che fa lui. Donkey, to the dog. Don't be a jerk, to the dog. What should you work for? Il falco e il gabbiano. Si profila così una grande sfida tra cani attori, ma cani veri. Il detentore del titolo è Strongheart, un pastore tedesco che recita in alcuni film muti tra il 21 e il 27. E per esempio fu celebre la sua interpretazione di Zanna Bianca, girato nel 1925. Però ormai quasi tutte le pellicole da lui girate sono andate perdute. Lo sfidante, quello che si sta affacciando alla ribalta, è Rin Tin Tin. Strongheart aveva dei genitori che di mestiere facevano i registi, i genitori intendo i padroni naturalmente, quindi parte con una carriera avvantaggiata. C'erano molti posti nei dintorni di Los Angeles in cui Rin Tin Tin poteva correre ed allenarsi con Lee. Un giorno riuscì a fare un salto da una roccia alta più di 3,5 metri. Fu allora che Duncan si convinse che il suo cane aveva qualcosa di speciale e avrebbe potuto essere il nuovo Strongheart. Ecco lo sfidante. Però a differenza di Strongheart, Rinty, o meglio Lee Duncan, il suo padrone, non è un regista e quindi deve trovare il modo per farsi notare da qualcuno che gli possa offrire una parte in qualche film. Dunque Duncan ha iniziato a fare l'allevatore di professione rivendendo i cuccioli di Rinty e di Nanette. È il fondatore del club dei pastori tedeschi della California. Questo gli permette di organizzare diverse manifestazioni in cui vengono presentati cani da tutto lo stato e vengono svolte prove di agilità. Naturalmente Rinty, Rin Tin Tin, si distingue sempre in ogni gara. Ma non è a questo tipo di manifestazioni che si presentano i produttori cinematografici. Per incontrarli bisogna andare su e giù per la Poverty Row, come si dice a Los Angeles. Nello slang di Los Angeles, percorrere la Poverty Row, letteralmente la riga della povertà, significa andare a proporsi a tutti quei registi e produttori di secondo ordine, capaci di produrre solo i cosiddetti B-movie, film con budget bassissimo e a volte ridicolo. Il cinema è una nuova invenzione e solo da pochi anni offre divertimento e emozioni. Il pubblico vuole vedere molti film. Così si bussa a tante porte, ma nessuna di queste si apre. Ci vuole un colpo di fortuna. He had white horses and ladies by the score, all dressed in satin and waiting by the door. Ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man he was. E alla fine Lee Duncan, un uomo fortunato, lo diventa veramente, perché in un set cinematografico si sta girando una scena del film The Man from Hell's River. O almeno si cerca di girarla, perché il lupo scritturato per questo film non ne vuole sapere di compiere un salto particolarmente impegnativo. Lee Duncan osserva la scena con il suo cane e alla fine propone al regista di fare provare la scena a Rin Tin Tin. Il cane è abituato a ben altri tipi di salti, quindi seguendo i comandi vocali del suo padrone gira la scena al primo tentativo, raccogliendo gli applausi dell'intera troupe. È superfluo dire che la parte è sua, quindi nel 1922 Rinty debutta come attore con un nome d'arte, che intanto è Rin Tan. Vabbè, intanto l'importante è cominciare. In quegli anni si utilizzavano spesso lupi veri per girare film western, ma spesso le cose diventavano pericolose e ingestibili, perché comunque si trattava sempre di animali selvatici. Rin Tin Tin, dopo il suo debutto, venne chiamato altre volte per interpretare la parte del lupo, e la voce che Lee Duncan fosse un ottimo addestratore arrivò anche alle grandi case di produzione. Susan Orleans ci racconta un altro pezzo della vita di Lee Duncan e del suo cane. La Warner Brothers non naviga in buone acque e fare cinema è un'attività molto rischiosa, e per guadagnare devi produrre degli ottimi film per un pubblico che sta diventando sempre più esigente. Ecco perché la casa di produzione dei fratelli Warner decide di investire una cifra importante per l'epoca, $100,000, per produrre un film scritto dallo stesso Duncan, in cui ovviamente Rinty è il protagonista. Where the North Begins, dove comincia il Nord. Il film riscuote un notevole successo e dà una spinta importante alla carriera di Rin Tin Tin, che successivamente partecipa ad altri 24 film, e soprattutto permette alla Warner di risollevarsi economicamente e di proseguire la sua attività che, come sappiamo oggi, non si è mai interrotta. quelli che partecipano alla scrittura del film di Rin Tin Tin c'è anche un giovane sceneggiatore, Daryl Zanuck, il futuro fondatore della 20th Century Fox. Warner Bros., 20th Century Fox, sembra che buona parte del cinema americano debba la sua fortuna ad un cane. Ma in effetti Rin Tin Tin diventa una vera stella del cinema, è amato dai bambini ma anche dagli adulti, e Lee Duncan viene considerato il miglior addestratore di cani che il cinema abbia mai avuto. E poi c'è un fatto che forse può far ridere per la sua ovvietà, ma è un dato di fatto: Rin Tin Tin ha successo ovunque nel mondo perché i film sono muti e lui non ha bisogno di sottotitoli. Un cane resta sempre un cane, in America come in Europa. Con la celebrità arrivano per Rin Tin Tin anche i primi contratti pubblicitari. Ovviamente non si tratta di fare da testimonial per un'auto o per una polizza assicurativa, ma di ottimo cibo per cani. Si vocifera addirittura su una sua candidatura all'Oscar del 1929, ma alla fine anche i membri dell'Academy Awards capiscono che forse non è il caso e lasciano perdere. Ma il cinema cambia, l'avvento del sonoro porta una vera e propria rivoluzione tra gli attori dell'epoca. Ora, per essere un grande attore non basta più avere espressività, bisogna anche saper parlare. E per sapere come se la sia cavata Rin Tin Tin davanti all'arrivo del sonoro, restate qua, torniamo tra poco. La puntata di oggi del Falco e il Gabbiano è dedicata a Lee Duncan, che è l'addestratore americano che, dopo aver salvato dai bombardamenti una cucciolata di cani, ne trasforma uno in una famosa star del cinema, diventando il più famoso addestratore. Il nome della star è Rin Tin Tin e il risultato è ottenuto con anni di addestramento e grazie a un amore esagerato nei confronti degli animali. Lee Duncan, da caporale dell'aviazione, è riuscito a trovare la sua strada perché è diventato allevatore di cani e ha raccolto un meritato successo. Intanto Rin Tin Tin è diventato una stella del cinema muto e l'avvento del sonoro non sembra averlo spaventato, perché mentre molte star crollarono nel momento in cui si trovarono di fronte all'onere di parlare, a Rin Tin Tin non successe esattamente così. Rin Tin Tin partecipò a 4 film sonori, ma se la cavò benissimo, perché Lee Duncan aveva addestrato il suo cane ad ubbidire agli ordini anche seguendo semplici gesti delle mani. Prima, con il cinema muto, era più comodo perché si poteva parlare, ma Rin Tin Tin non sentì assolutamente la differenza, che invece fu la rovina di molti attori dell'epoca. Ferma! Cosa è successo, Decio? Lina, guarda, cara, non ti ricordi, te l'ho detto. C'è un microfono qui dentro, nel cespuglio. Sì? Devi parlarci dentro. Ma parlavo io, è vero, signorina? Sì, mia cara, ma faccia bene attenzione, la pronuncia chiara. Pierre, tu rischi la vita. Pierre, tu rischi la vita. Sì, mia cara, va meglio, e ricordi... Un momento! Ecco, Lina... Ecco il microfono, qui nel cespuglio. Parlaci dentro. E beh, questo piccolo stralcio dal film Cantando sotto la pioggia mette in evidenza le difficoltà che molti attori provenienti dal muto incontrarono, perché a volte a un bel viso non corrisponde una bella voce o una voce all'altezza della situazione. Però se parliamo di cani la cosa è diversa, perché Rin Tin Tin continua la sua carriera semplicemente abbaiando e rispondendo ai comandi del suo addestratore Lee Duncan. Avrebbe continuato ancora per molto tempo, ma purtroppo, si sa, la vita di un cane è molto più breve rispetto a quella di un uomo, e a un certo punto la natura fa il suo corso e Rin Tin Tin muore nel 1932. Lee Duncan trovò Rinty per terra, a casa. Fu una morte naturale, semplice, senza clamore. Ma la stampa dell'epoca ci ricamò sopra alcune leggende che riempirono le prime pagine dei giornali per molti giorni. Qualcuno disse che era morto sul set dove il figlio, Rin Tin Tin Jr., stava girando una scena. Altri dissero addirittura che era morto tra le braccia di Jean Harlow, la famosa attrice. Insomma, Hollywood voleva una fine all'altezza della fama raggiunta dal suo divo. Rin Tin Tin e Nanette fecero almeno 48 cuccioli e Lee Duncan allevò ognuno di questi cani come dei figli. Ne vendette alcuni da allevatore, altri li regalò, ma continuò la dinastia dei cani attori nel nome del capo stipite, Rin Tin Tin. Certo, la crisi del 29 portò una brusca frenata alle produzioni cinematografiche. I produttori di Hollywood dovevano fare i conti al centesimo e non era più molto conveniente investire tutto su film in cui un cane e non un essere umano era il protagonista. Ma Lee Duncan non si lascia demoralizzare e per i suoi cani inizia una nuova possibilità di carriera che per certi versi può sembrare assurda perché i suoi cani debuttano in radio. The National Biscuit Company presents The Adventures of Rin Tin Tin. Yo, ready! Dal 1930 al 1955 Rin Tin Tin e i suoi successori sono stati protagonisti di The Wonder Dog, il cane delle meraviglie, una serie ovviamente sponsorizzata da prodotti alimentari per cani. L'impegno richiesto ai nuovi attori è decisamente inferiore rispetto a quando sul set cinematografico dovevano compiere balzi strepitosi, attraversare boschi in fiamme o nuotare attraverso le gelide acque di un fiume. Ma si sa, al pubblico piace immaginare e la serie di The Wonder Dog, che poi cambia nome in, ovviamente, Le avventure di Rin Tin Tin, racconta di un cane che, sempre rigorosamente ricompensato con il mangime sponsor del programma, compie incredibili azioni eroiche, arrivando a salvare la Terra da un attacco alieno. Tenente Master, è Rin Tin Tin! Aprite la porta! Che cos'hai, Rinty? Cos'è successo? Va bene, ho capito. Qualcosa non va, altrimenti non sarebbe qui senza Rusty. Vuole che lo seguiamo? Montate a cavallo! Con l'avvento della televisione, ecco Rin Tin Tin, o meglio i suoi successori, diventare protagonista di una serie televisiva che è entrata a far parte della storia della TV mondiale. Lee Duncan è sempre presente e ormai è diventato una star, è l'addestratore più famoso d'America, comanda a gesti le azioni che i suoi pastori tedeschi compiono sul set. Le avventure di Rin Tin Tin hanno tutte le caratteristiche che possono piacere al pubblico americano. Perché c'è un bambino, Rusty, che è rimasto orfano per colpa degli indiani cattivi, viene adottato dai soldati di Fort Apache e insieme al suo cane, anche lui scampato alla furia dei crudelissimi indiani, aiuta i soldati a mantenere l'ordine nel vecchio West. A questo punto ci manca solo la carica della cavalleria e il gioco è fatto. La serie televisiva va in onda dal 1954 al 1959 e riscuote un successo incredibile. Rin Tin Tin è il cane di tutti gli americani. e il compagno di avventure dei bambini, diventa un vero e proprio simbolo dei valori della nazione. È buono, fedele, coraggioso, difende i suoi compagni d'avventura dai nemici che minacciano la sicurezza del paese. E anche quell'inizio, diciamo, di colonizzazione dell'Italia da parte dell'America, anche attraverso i telefilm, passa da Rin Tin Tin, perché io da bambino, alla fine degli anni 60, me lo ricordo bene. Forse i bambini non lo capiscono ancora, ma incarna perfettamente l'idea che i politici americani vogliono dare al mondo a proposito del ruolo degli Stati Uniti, il cane da guardia della pace mondiale. Non si può pagare il costo di chi arriva da lontano e spaventa noi che stiamo al nostro posto, perché io ho paura, sto morendo di paura, non capisco la paura che hai di me. Un americano medio, Dio dei normali libera dal male tutto il mondo commerciale. Lee Duncan, dopo aver addestrato Rin Tin Tin e molti dei suoi discendenti, muore nel 1960 senza mai aver registrato il marchio di Rin Tin Tin. Allora la sua eredità professionale viene raccolta da una signora del Texas, Janet Props, che aveva adottato molti dei cuccioli allevati proprio da Lee Duncan. Ma la carriera cinematografica e televisiva di Rin Tin Tin termina con la morte del loro papà, Lee Duncan. Come tutti gli attori che si rispettino, Rin Tin Tin lascia le scene ad un'altra star che ha iniziato come lui nel 54 la carriera televisiva, ma che vanta già diversi successi anche in campo cinematografico. È una donna, anzi in questo caso meglio dire una femmina, Lassie. Che diavolo, Joe? Ma è questa la maniera di entrare? Scusa mamma, io e Lassie vogliamo pane, burro e marmellata, vero Lassie? Pane posso darvene, ma burro e marmellata te le scordi? Dammi un po' di miele allora. Figurati. C'è rimasto solo un po' di condimento, se vuoi. Non posso darvi che questo. Grazie. Vieni, prendi. Porta fuori il cane e divertiti con Lassie, ancora per oggi. Bene, mamma. Ma questi cani, che nella loro carriera hanno recitato meglio di molti uomini e che hanno quasi vinto l'Oscar e hanno una stella sul celebre marciapiede di Hollywood e che hanno lasciato una traccia indelebile nella storia del cinema, della televisione ma anche della radio, sono stati i precursori di tante altre stelle prese in prestito dal mondo animale, che hanno fatto divertire grandi e piccini in decine di produzioni che ancora oggi accompagnano la nostra vita. Francis! Francis! Ma sì, sono io! Ma allora è vero! Ti ho sentito parlare l'altra volta! Oh, non me l'ero sognato! No, è vero! Non ero pazzo, no! Ma questo è da vedere, tenente! E allora, perché mi hai fatto chiamare? Io vi ho fatto chiamare! Sì, questo biglietto me l'hai scritto tu! Ah, non metto mai niente per iscritto io! E poi c'è Francis, il mulo parlante, che è stato protagonista di ben 7 film negli anni 50. Naturalmente anche lui era un militare e anche lui trasmetteva valori positivi e patriottici. Poi c'è Cheetah, la scimmietta di Tarzan, poi arriva Babe, il maialino, e poi Beethoven, il San Bernardo che amorevolmente semina bava su tutti i divani che incontra. E poi chi di voi non ha visto almeno una volta 4 bassotti per un danese? Mark, tu devi sbarazzarti di quel cane. Ehi, un momento, Fran, non ricominciamo da capo. Adesso Brutus è il mio cane e io... Volevo dire per oggi, Mark, in modo che non stia fra i piedi. Insomma, è già difficile preparare una festa in giardino per 60 persone senza quella squadra guastatori a 4 zampe che corre avanti e indietro dappertutto. Squadra guastatori, eh? Parliamo invece di quei tuoi esperti demolitori, eh? Mark, ma come fai a paragonare quei cari dolci angioletti con quella specie di bisonte furioso? Insomma, non siamo alle suggestioni inquietanti del pianeta delle scimmie, ma comunque c'è molto potere agli animali nel cinema, grazie a Lee Duncan, che con la sua pazienza nell'addestrare il suo Rin Tin Tin ha dato il via a un nuovo genere cinematografico. È indubbio che gli animali come i cani, i gatti e gli animali domestici in generale siano sempre stati una parte importante della nostra vita. Sono i compagni di giochi dei nostri bambini e sono i fedeli accompagnatori della nostra vecchiaia. Oggi il mondo del web ci ha abituati a vedere immagini di cani maltrattati, abbandonati, cani che vengono ripresi infilmati dai titoli strappalacrime come Il cane che ha commosso il web. Forse sarebbe necessario dare ai bambini, che ci guardano e imparano da noi adulti, delle rappresentazioni meno legate alla sofferenza e più vicine alla caratteristica positiva di forza, alle caratteristiche di agilità e di simpatia tipiche di questi animali. Insomma, forse ci vorrebbe un nuovo Rin Tin Tin. Ciao, a domani. Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Dodo Chipinti.